30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Alla fine del mese di giugno sarà reso noto l'esito della richiesta di inserire le Dolomiti nella lista del patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO. La candidatura è stata presentata nel gennaio del 2008 da una squadra composta dalle province di Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone ed Udine. Pochi giorni fa è arrivato il via libera dell'International Union for Conservation of Nature, organismo internazionale incaricato di esaminare in prima istanza le candidature dei beni naturali. Entro il 30 del prossimo mese l'esito nel corso di una riunione plenaria che avrà luogo a Siviglia. Buonasera dunque e benvenuti a 30 minuti in cronaca, questa sera in onda, l'avete sentito, in diretta da Trento, dagli studi di Piazza Pasi, pochi passi dal Duomo. Quale luogo migliore per parlare della sfida delle Dolomiti, per capire le ragioni, i vantaggi, i rischi anche, ne parleremo, che la fama impone al sublime, perché in fondo di questo parliamo, e dunque naturalmente anche di questo formidabile sistema geologico, ma anche naturale, culturale e storico. Bene, per parlare di tutto questo il nostro ospite stasera è Mauro Gilmozzi, che è assessore all'urbanistica e enti locali della provincia autonoma, responsabile della tutela del paesaggio. Buonasera innanzitutto. Buonasera. E dico benvenuto, ma siamo noi a, come dire, è lei a dire a noi benvenuti, visto che i padroni di casa questa sera siete assolutamente voi trentini, ed è una bella occasione, credo, per parlare di qualcosa che in fondo tutti conosciamo più o meno per sentito dire, ma che in realtà forse ben pochi conoscono, perché una tale complessità e un intrico così formidabile, appunto, di complessità, che dire conoscere le Dolomiti forse rischia di essere veramente presuntuoso. Ma andiamo al sodo. Le Dolomiti, perché il patrimonio mondiale? Che cosa intendete ottenere? Ma guardi, innanzitutto il riconoscimento dell'unicità, proprio da un punto di vista geologico, geomorfologico, di questi gruppi montuosi, che per tradurre dal linguaggio scientifico, io uso un po' questo esempio, sono il carotaggio più importante della Terra rispetto a quelli che sono gli strati carbonatici della Terra stessa. Quindi dalla Pangea, no? Lo spostamento a deriva dei continenti ha fatto sì che su una base di porfido si innalzassero queste grandi spiagge, no? Una volta spiagge preistoriche, che poi via via sono diventate le Dolomiti. Ed oggi queste Dolomiti sono lì, sono questi monumenti che, unici al mondo, rappresentano e sono visibili tutti gli strati carbonatici, appunto, almeno più di 5. Insomma, questa è la vera unicità da un punto di vista geologico che vorremmo vedere evidentemente riconosciuta. Assieme a questo, insomma, ci sono poi aspetti di tipo paesaggistico che non hanno a che vedere solo col panorama, coi colori, con le suggestioni, evidentemente, di scenari che le Dolomiti evocano in ciascuno di noi, ma hanno a che vedere proprio anche con un paesaggio che è espressione anche di un'identità locale, che quindi è frutto di un intreccio storico tra uomo, natura, eccetera, e che quindi finalmente per la prima volta, e questo è un aspetto io credo molto importante, mette l'uomo all'interno di questo paesaggio. Cioè, per la prima volta UNESCO e UCN si sono detti convinti che il riconoscimento di un bene naturale non è il riconoscimento di un qualcosa in cui l'uomo non c'è, ma è un qualcosa in cui l'uomo c'è ed ha un ruolo. Ecco, l'uomo c'è come? E allora mi piace, visto che so che lei viene dalla Val di Fiemme, da Cavalese, che Dolomiti si vedono da Cavalese? Ma guarda, dipende dalla posizione, no? Allora, c'è l'imbarazzo della scelta. Da casa mia vedo il Brenta, vedo le Dolomiti di San Martino, vedo il Latemar, ma se vado al Cermis vedo il gruppo del Sella, il Cattinaccio, riesco a vedere anche le Dolomiti di Cortina, insomma, per capirci. Insomma, l'uomo al centro di questo, e l'uomo che è stato anche il cantore. In fondo le Dolomiti erano già celebre prima di chiamarsi così. Goethe è citato tante volte, per lui le Dolomiti non esistevano, perché solamente qualche anno più tardi, appunto, Monsieur de Dolomieux, in piena rivoluzione francese, una storia, un personaggio formidabile, mentre il mondo era in subbuglio, lui leggeva appunto gli strati che ci ha raccontato. Insomma, montagne, luoghi e una formidabile evocazione. Salgo dalla pianura e vedo apparire in fondo alla valle le cime amate. E all'improvviso risplendono al sole le pareti con quel loro colore indicibile e balenano sulle ultime creste le candide cornici di ghiaccio come miraggio irraggiungibile. Una barriera corallina emersa dall'acqua, terra sospesa sul mare, oltre i pascoli. Le Dolomiti a questo devono la loro colorazione chiara, pallida, che si accende al tramonto, di un colore indicibile, come descrive Dino Buzzati, lo scrittore bellunese che in molti libri rende la sua valle viva, protagonista, quello spicchio di terra che si apre a Fener e si chiude ai piedi delle Marmarole. Le Dolomiti, racconta nel suo primo libro Barnabo delle Montagne, non assomigliano veramente a torri, non a castelli, né a chiese in rovina, ma solo a se stesse, così come sono, con le frane bianche, le fessure, le cenge ghiaiose, gli spigoli senza fine a strapiombo, piegati fuori nel vuoto. Raccontate, arrampicate, contemplate, queste rocce uniche al mondo in cui convivono diverse anime e culture sono state oggetto di amata venerazione, adesso storie, letteratura. Wolfgang Goethe nel 1786 restò talmente colpito dalla loro architettura che nella sua opera Viaggio in Italia le descrisse con queste parole. Le Alpi calcaree che ho percorso finora presentano un color grigio e forme irregolari, ma originali e pittoresche. Le sue pareti e le cime offrono gli aspetti più bizzarri. Nel fulgore del sole nascente, tutto era un avvicendarsi di quadri deliziosi. Il cui fascino ha ispirato non solo letterati, ma anche musicisti. Questa è la 10ª sinfonia del compositore austriaco Gustav Mahler, rimasta incompiuta. La scrisse durante il suo ultimo soggiorno estivo a Dobbiaco, in provincia di Bolzano, una valle che si affaccia sulle vette più suggestive di questa catena montuosa e per questo chiamata Porta sulle Dolomiti. E questa invece era Michela Nasca, che ringraziamo, che ci ha dato uno spunto. In fondo sono state scritte pagine e pagine, ma pagine di letteratura, pagine di musica. In sottofondo peraltro dovremmo avere un'altra musica che forse riusciamo a sentire. Già, perché mi piace ricordare che un'esperienza che il Trentino ormai realizza da anni, che è quella della musica delle Dolomiti, perché effettivamente la suggestione di un quartetto piuttosto che di un violinista come Uto Ughi o tanti altri nomi che hanno suonato all'alba su un, appunto, in uno dei molti luoghi magici delle Dolomiti, credo che sia un'avventura da ricordare e segnalare. Ma torniamo dunque ai comuni. Prima sentivamo Bolzano, ma ricordiamolo, 5 sono le province, non tanti comuni che sono molto di più. 5 province. Ora, da un lato ci dà la complessità, ma anche la complessità dell'operazione. Indubbiamente sì, perché uno degli aspetti rilevanti che abbiamo dovuto affrontare è proprio il fatto che questi beni siano beni seriali e che quindi emergano in punti diversi fra di loro anche geograficamente, pur appartenendo ad un unico blocco evidentemente geologico, e questa diversità si trasferisca anche in chiave geografica proprio su territori e su istituzioni fra loro diverse. Vengono coinvolte le province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno istituzionalmente dei poteri maggiori di una regione a statuto ordinario, e poi vengono coinvolte province come quella di Belluno o di Pordenone, di Udine, che invece hanno poteri diversi, no? Inferiori a quelli di una regione ordinaria. Quindi c'è una diversità istituzionale, c'è una diversità linguistica, abitano queste regioni tedeschi, popolazione in lingua tedesca, ladina, italiana, eccetera, quindi c'è anche questo aspetto. Ci sono molte diversità che però arricchiscono questa cultura comune, perché intorno alle Dolomiti c'è una cosa che possiamo dire che è unitaria e unica, e che è proprio il popolo della montagna, che non è solo il popolo del turismo, ma il popolo di chi vive la montagna sempre, tutto l'anno. Ecco, il turismo è sicuramente un elemento centrale, ne parliamo tra un momento. La complessità, lei ha citato quella linguistica, solamente a pochi chilometri da qui abbiamo per esempio l'isola Cimbra, quindi che evoca percorsi antichissimi di popoli, di battaglie, scontri coi romani. Ecco, come questa complessità può essere aiutata dall'UNESCO? Ma credo proprio nella soluzione che abbiamo trovato per mettere in rete tutte queste diversità, ovvero l'istituzione di una fondazione attraverso la quale abbiamo non solo inteso in questa fase di candidatura mettere a punto i framework, no? Quindi la rete, gli obiettivi generali e comuni, ma anche proprio dei progetti unitari pro futuro. Noi dovremmo riuscire a costruire, per dare prosecuzione, no? Se saremo evidentemente, se avremo successo con questa come candidatura. Come abbiamo detto, attendiamo la fine del mese di giugno per l'esito. Non diamo niente per scontato, però insomma il futuro sarà questo, cioè costruire un grande progetto in comune intorno alle Dolomiti che abbia spunti di tipo culturale ma non eccessivamente intellettuale, che sia un qualcosa di veramente popolare, perché tra gli estremi, no, che abbiamo dovuto anche valutare in questa candidatura, cioè l'estremo della ipertutela che qualche associazione propone, e dall'altra l'estremo della paura che qualsiasi attenzione al territorio possa impedire progetti di sviluppo piuttosto obsoleti, no, culturalmente da questo punto di vista, noi dobbiamo lavorare in ciò che sta in mezzo, no, e quindi diffondere, promuovere un grande dibattito che sia per questo molto popolare. Non è facile, non è scontato. In una battuta, essere parte appunto nella lista del patrimonio dell'UNESCO porta denaro? Beh, diciamo che può portare anche vantaggi economici, e li porta però soprattutto con questa chiave di lettura, cioè rende un territorio più competitivo. Eccoci dunque a parlare di Dolomiti, nel sottofondo ancora un brano appunto raccolto tra le montagne nell'edizione dei Suoni delle Dolomiti, ma parlavamo anche di denaro, parliamo di ricchezza e di turismo naturalmente, ricchezza e minaccia, insomma qui siamo, e dico qui evocando un plurale perché mi riferisco a questa provincia ma quella di Bolzano, il turismo è una ricchezza formidabile. Quanto vale il turismo percentualmente nel PIL della provincia autonoma di Trento? Beh, diciamo che per noi vale circa un 13% del PIL, 2 miliardi e mezzo grosso modo, essendo quello del Trentino un PIL intorno ai 16 miliardi di euro. Quindi, quando lei indicava quell'esigenza di compensare, insomma di creare un equilibrio tra il rischio di spremerlo, insomma queste Dolomiti, di spremerle, di colonizzarle, di sfruttarle al massimo, e il rischio altrettanto presente di renderle qualcosa che in fondo non sono mai state, cioè qualcosa che non si tocca, qualcosa a cui non si accede. Sì, direi che questa è la cosa più importante, no? La ricerca di questo equilibrio, però partendo da una cosa che voglio dire, cioè da un ragionamento che è questo: noi abbiamo superato quello che è il concetto di consumo di territorio per fare prodotto turistico da un bel pezzo, insomma, cioè per noi le Dolomiti non sono un brand da aggiungere ai tanti altri, ma abbiamo sviluppato un ragionamento più ampio pensando che il territorio oggi sia uno dei maggiori fattori di competitività che può dare un aiuto all'economia e anche alle imprese, cioè se in questo territorio noi riusciamo a leggere non solo alcune cose ma il suo insieme, quasi vorrei dire uno stile di vita che contraddistingue un territorio, cioè noi siamo convinti che promuovere ricerca, università ma anche il valore che hanno i beni ambientali possa diventare elemento che promuove l'economia in generale del Trentino e del territorio. Quindi questo non vale solo per un comparto, cioè non vale solo per il turismo, ma vale per tutti i comparti, cioè ormai ci si insedia come aziende oppure si decide di andare a lavorare, semplicemente si riesce ad essere più attrattivi per imprese e anche per capitale umano se la competitività del territorio è alta, e in questa competitività noi abbiamo inserito anche il valore dell'ambiente, il valore e l'eccezionalità dei simboli di questo ambiente, e quindi le Dolomiti diventano importanti soprattutto per questo, quindi servono al turismo ma non solo al turismo. Ecco, in questo senso la sobrietà, il senso dell'equilibrio peraltro viene molto evocato proprio in queste ore, siamo appunto a Trento, abbiamo raccontato, e rischia di diventare però un altro mantra, quindi con l'effetto, forse devo dire in Trentino vi eravate un po' portati avanti, nel senso che c'è sempre stato un po' un atteggiamento, ora è chiaro che culturalmente l'impatto, diciamo, del mondo digitale, del web, di tutti questi strumenti, forse qui e in regioni simili valgono molto di più. Lei oggi mi raccontava in fondo la sua giornata e la complessità in automobile di girare ancora questa regione. In fondo non è cambiato molto negli ultimi 15 anni. Certo che mandare una mail e gestire diciamo anche una piccola o grande azienda attraverso questi strumenti oggi è veramente possibile. Sì, è possibile e credo che aiuti anche molto, no? chi vive la dimensione sociale ma anche economica di territori di montagna come il nostro, e quindi indubbiamente poter oggi muoversi con questa facilità in tutto il mondo permette anche a prodotti molto piccoli, no? Di nicchia, se vogliamo, di diventare importanti per il mercato, e quindi indubbiamente stiamo lavorando anche in questa direzione, no? Cioè riuscire a utilizzare le migliori tecnologie perché evidentemente si possa costruire anche prodotto turistico. Però guardi che in realtà non è a questo che miriamo, insomma, con questo riconoscimento, ma miriamo soprattutto a rendere evidente quello che è l'aspetto che lei sottolineava prima, cioè come si vive in montagna in epoca di globalizzazione, consapevoli del rischio che la montagna venga definitivamente svuotata se si pensa che vivere in montagna sia un privilegio perché magari c'è il turismo, tutt'altro, insomma, no? E forse anche a questo servono le autonomie speciali, cioè per spiegare che se non garantiamo qualità della vita anche nelle zone più distanti dai centri dove ci sono le migliori opportunità, evidentemente la gente se ne va dalla montagna. È una montagna senza abitanti, è una montagna senza identità, è una montagna senza difese, e diventa un problema un po' per tutti, no? Quindi assolutamente diventa anche una montagna senza storia, senza libri, quei libri proprio che abbiamo citato, evocato, e di fatto che rappresentano il nostro patrimonio, anche di noi delle pianure che conosciamo la montagna, diciamo, attraverso la letteratura. Sì. Vale la pena forse di ricordarlo, patrimonio dell'umanità, che cosa significa? Oggi sono 878 siti, quindi un numero importante, presenti in 145 nazioni del mondo. Attualmente l'Italia è la nazione a detenere il maggior numero di siti inclusi nella lista, sono 43, seguiti dalla Spagna e dalla Cina, 37. Torniamo all'evocazione ancora un momento e torniamo con un autore che ci racconta in un minuto la sua passione per le Dolomiti, per la montagna, visto da uno scrittore napoletano. Sentiamolo. Io sono un alpinista, quindi sono uno scalatore. Passo tutte le mie estati in Dolomiti a scalare, dunque ho un'intimità con quel luogo. Il fascino è che sono magnifiche, bellissime. Sono anche vecchie, friabili, sono anche stanche, hanno anche questo rosso al tramonto che viene fuori, che è il rosso della ruggine, della stanchezza di essere presi a fulmini e a perdere pezzi nel corso delle ere. Quali sono gli aspetti che maggiormente l'affascinano di questa montagna che lei ha vissuto, ha raccontato, ha scalato? Sono un posto dove una persona può andare a ritrovare il passato remoto della terra, in cui noi siamo minoranza. Sono dei luoghi, le montagne, scomode, inaccessibili, difficili, da inabitabili. Nessuna civiltà si è accampata sopra le montagne, sotto sì, e anche fino a delle quote scomode, ma sopra le montagne non c'è mai salito nessuno. E allora le montagne hanno anche questo di simpatico, che si sono scrollate di dosso ogni proprietà privata. Henry De Luca, traduttore e scrittore napoletano, classe 1950, peraltro sulla traccia di Nives Meroy, alpinista bergamasca, invece anche lei molto amante di queste montagne, dice tra l'altro sono montagne simpatiche, sono montagne così a volte anche rovinate proprio per questa formidabile storia che c'è qui. Eh sì, direi che questa è un po' l'unicità del paesaggio dolomitico, riesce a mettere insieme molti fattori, è conosciuto, è molto amato, e forse anche per questo, insomma, ha bisogno di tutte le cure e le attenzioni che dobbiamo dedicargli. Non è che renderlo o inserirlo in questa lista rischi in qualche modo di congelare appunto quei meccanismi così vitali, che poi è queste complessità e diversità, non sarà una costruzione di legacci, di lacci e lacciuoli, come si diceva? No, assolutamente no, perché non teme questo. Anzi, una delle condizioni per il riconoscimento era proprio quella del verificare i tipi di tutela, i tipi di anche legame, no? Istituzionale, vincoli, non vincoli, cioè che ci fossero rispetto a questi beni. Tradotto, questo vuol dire che l'UNESCO non ci impone una tutela in più, ma ci impone evidentemente di prenderci cura di queste montagne con l'attenzione e il rispetto che tutti noi gli dobbiamo. Quindi il successo, se ci sarà, di questa candidatura è stato proprio quello di spiegare che queste montagne convivono anche con delle attività umane che sono importanti l'una per le altre con grande reciprocità. Ecco, a proposito di attività umane, in conclusione, non vorrei far passare l'idea che le montagne sono dei luoghi appunto bucolici in cui insomma una certa immagine poco reale della montagna. In montagna si discute, di spesso si discute anche da paese a paese, a frazione. Questo progetto quanto è condiviso dalla popolazione? Insomma, lei immagino abbia tastato il polso. È stato sicuramente condiviso, anche perché il processo è stato molto lungo, è più di 4 anni che ne discutiamo, che ne parliamo, che facciamo riunioni, chiaramente con gli estremi di cui dicevo prima. C'è sempre chi ha paura che il riconoscimento di UNESCO sia un vincolo in più, e non è vero, e c'è chi ha paura che il riconoscimento di UNESCO sia un brand in più, cioè per fare un po' di mercato, no, per gli impiantisti o le piste da sci. Non è così, è il giusto mix secondo me per rilanciare i temi dell'economia e della montagna, e della montagna nel suo insieme, insomma, perché... Bene, e allora che la discussione vada avanti, magari con vista sulle Dolomiti. Io ringrazio Mauro Gilmotti, lo ricordo, assessore all'urbanistica e enti locali della provincia autonoma di Trento, ma in questa veste responsabile della tutela del paesaggio e, come dire, investito anche da tutti noi che lontano da questi luoghi non possiamo che condividere questa grande passione per le Dolomiti. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, mi fa piacere che Radio Enti 4 tifi per le questo riconoscimento. E naturalmente per i nostri ascoltatori e per gli ascoltatori di Radio 24 terremo d'occhio la situazione, quindi appuntamento alla fine del mese di giugno per sapere come sarà andata. E altro non diciamo, se non che questa, come tutte le altre trasmissioni di Radio 24, potete riascoltarle su radio24.it. Da parte mia l'augurio di un'ottima serata, l'appuntamento in diretta da Trento domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa.